e viceversa, il tentativo di inviare personale di lingua madre tedesca in Lombardia, seppure magari non per perché vi si fermasse tutta la vita, ma come esperienza sì, appunto, no? Nel curriculum generale, anzi questo tipo di esperienza. Però dovevano sapere l'italiano. Sì, certo. E poi vi appunto mandavano i trentini. I trentini. Era l'unico motivo. Sì, sì, come dice i Bersetti, che autentavano. Felna, di prendere la parola, il professor Felna di Salisburgo, autore del libro sulla triplice alleanza. Sì, e poi l'editore del Italia Buffi. Di Rilli. Großartiges, helles Gemälde, eine Schattierung hinzufüge und vielleicht noch ein paar Farbtupfen, die in das Gesamtbild vielleicht noch ergänzen können. Die Schattierung liegt in der Interpretation der Frage des Föderalismus im Konflikt mit dem Zentralismus. Vielleicht gibt uns das Faktum, dass der nicht Mitglied des Kabinetts Hohenrat gemacht wurde, ein Schlüssel zu einer Interpretation des Konfliktes um den sogenannten Fundamentalartikel und das Scheitern des Kabinetts Hohenrat. Wir sind gewohnt, und auch in Ihrem Vortrag war das sehr stark zum Tragen gekommen, die Problematik der Habsburger Monarchie als eine Problematik der Nationalitäten. Sie selbst am Eingang Ihres Vortrages gesagt, dass die ursprüngliche Struktur der Habsburger Monarchie eine Art territorialer Föderalismus war und nicht ein nationaler. Die besondere Betonung des Nationalitätenstreites hat uns meiner Ansicht nach darüber vergessen lassen, dass die eigentliche Basis des Konfliktes zwischen Zentralismus und Föderalismus in den 60er und 70er Jahren eine ökonomische gewesen ist. Der Föderalismus, wie von Hohenrat nur als Name genannt, symbolisiert wurde, repräsentierte das feudal-agrarische Prinzip. Der Zentralismus repräsentierte das bürokratisch-industrielle, man kann nur mit Vorsicht sagen, kapitalistische Element, weil der Kapitalismus in Österreich nicht genügend ausgeprägt gewesen ist. Der Föderalismus war antiparlamentarisch und war antikapitalistisch. Der Zentralismus war für eine gelenkte Bürokratie, für eine gelenkte Parlamentarismus und eine zentralistische Bürokratie. Und zwischen diesen beiden einander gegenüberstehenden Prinzipien stand die Person des Kaiser Franz Josef. Ein Mann, der in den Interessen des Großadels, der Großagrarier, ein Element einer noch überlebenden Front sehen musste. Und der sich gegen diese Gefahr einer Front wehren wollte. Ein Mann, der aber mit diesem Großadeligen die konservative Einstellung gemeinsam hat. Andererseits war Franz Josef zentralistisch, bürokratisch gesinnt und hatte hier die Gemeinsamkeit mit den Liberalen, denen er aus seiner Weltanschauung heraus entgegengestellt war. Und hier kommt genau der Augenblick, in dem das Kabinett Hohenrat mit den Fundamentalartikeln scheitert, wofür Franz Josef das Gewicht der zentralistischen Organisation eines modernen Staates, der von der Bürokratie geregelt wird, wichtiger wird als die Sicherung des konservativen Elements. Das ist als Schattierung. Und einige kleine Farbtupfen möchte ich noch hinzufügen. Sie erwähnten Tafel und die Tätigkeit von Tafel. Auch hier sollten wir doch etwas stärker berücksichtigen, dass Tafels Sozialgesetzgebung, und er ist im Grunde genommen der Begründer der Sozialgesetzgebung in Österreich, eine rein antikapitalistische Zielsetzung hat. Er wollte damit das agrarisch-konservative Element gegen die, das Vordringen eines Kapitalismus in Österreich schützen und meiner Ansicht nach sogar zu erfolgreich gewesen. Und noch eine, als Bemerkung über Franz Josef. Franz Josef hat es bedauert, dass in der Hocharistokratie keine Kapazitäten zu finden waren, die man als Beamte verwendet. Sie erwähnten die vielen, es gibt einen sehr schönen Ausspruch darüber von Franz Josef. Sie erwähnten die vielen Pläne zur Reorganisation der Habsburg-Monarchie, Kamerz, Renner, Bauer, Sozialdemokraten, all diese Dinge. Es ist kaum bekannt, es ist kaum bekannt, dass solche Pläne auch in Ministerien ausgewirkt. Es gibt von Ehrenthal, von Grafen Ehrenthal, eine Reihe von Denkschriften über die Reorganisation der Habsburger Monarchie, noch bevor er Außenminister wurde, aber dann auch als Außenminister. Denn der österreichische Außenminister Karl-Monarchie war ja nicht nur Außenminister, er war dann Hausminister. Das war gesagt. Und daher sind nun auch im Ausland eine Reihe von solchen Plänen ausgearbeitet worden, die eigentlich aber wirklich veröffentlicht gehören und diskutiert werden. So viel nur. Danke. Ha aggiunto una nuance alla relazione del professor Sestano e poi ha fatto qualche piccola osservazione aggiuntiva. La prima osservazione riguarda un'interpretazione un po' diversa del conflitto centralismo-federalismo e del loro conflitto al tempo della caduta del gabinetto Hoymann. Il professor Pernar sostiene che l'elemento nazionale è stato forse nella tradizione storiografica troppo marcatamente accentuata e la vera base del conflitto non è, in questo caso, non è forse nazionale ma economica. Ci si trova di fronte ad un centralismo che rappresenta le forze burocratico-industriali, se si può parlare di forze industriali, e le forze federalistiche e un federalismo che rappresenta invece forze agrario-feudali. E appunto, e d'altra parte, queste due forze accolgono due principi diversi, una parlamentare, una invece burocratico. Nel mezzo si pone la figura di Francesco Giuseppe, che rappresenta un po' il terzo polo e che in questo caso determinato butta il suo peso, getta il suo peso dalla parte chiamiamolo delle forze che mirano ad un'organizzazione burocratica e centralistica dello Stato moderno, e la figura di Francesco Giuseppe è decisiva in questo momento. Poi oscillava sempre fra questi due poli. E un'altra osservazione, a parte questa discussione interpretativa, un'osservazione sulla politica sociale di Tafe, che è caratterizzata da questa, la politica di Tafe, che è caratterizzata da un'ampia legislazione sociale, è una politica anticapitalistica. Ha accennato al rimpianto di Francesco Giuseppe che nell'alta aristocrazia non ci fossero sempre teste così capaci come nella burocrazia, e l'ultima osservazione è che i piani di riorganizzazione della monarchia non provengono solo da ambienti esterni, Renner, Bauer, Fischhoff, così via, ma anche da ambienti ministeriali. In modo particolare sono stati ricordati i vari piani di Ehrenthal per la riorganizzazione della monarchia asburgica, sottolineando, come aveva già fatto il professor Sestan, che il ministro degli esteri non era solo ministro degli esteri, ma era anche ministro della casa imperiale. Professor Leoncini, per favore, mettiamo adesso il primo qua, adesso non c'è. Grazie soltanto che tempo, questo si stanno avuto modo di dire, cioè quando lui parla dei socialdemocratici ciechi, c'è alcuni che vanno nazionalsocialisti, il mondo erano i socialdemocratici, il mondo erano nazionalsocialisti, la narodni e socialistici la strana, che appunto poi il partito di massa di Benesse è diverso, cioè non deve generare equivoci dal nazionalsocialismo tedesco, allo stesso nome, ma in realtà completamente diversa, e si fa appunto agli ideali umanitari democratici. tattici della tradizione ceca, Rus, Gajitsky, Kromensky, eccetera. Quindi questa brevissima precisazione che mi sembrava non risultasse dalla lezione. Professor Engel. Englisch. Hauptsächlich meine Bewunderung für den Vortrag von Professor Sestan ausdrücken, umso mehr, als ich darin auch irgendwie eine Rechtfertigung für meine eigene Existenz nach der Jahreszahl meiner früheren, derselben älteren Generation, unserer gemeinsamen Generation erblicken darf. Aber da nun Professor Fellner eine sehr richtige Bemerkung gemacht hat, bitte mir zu erlauben, dass ich zuerst eine kleine Korrektur, wie es mir gewöhnlich geht, wenn Professor Fellner eine richtige Bemerkung macht, an seiner Bemerkung anschließen will. Da so arg wie gewöhnlich die Beschränktheit, die geistige der österreichischen Herren, Hocharistokratie schon aus einem Wort stammend, von Schwarzenberg vor allen Dingen, der allerdings zu früh gestorben ist, ist es doch nicht. Es gibt zum Beispiel Denkschriften von Professor Sestan, hat ja schon auf einige hingewiesen, von einem Hocharistokraten, der allerdings nicht diesen Familien angehört, die wir gewöhnlich mit dem österreichischen Hocharistokraten verbinden, vom Grafen Potocki, dass der Österreicher organisieren wollte nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika. Nun, da bin ich jetzt bei meiner Bemerkung, die ich eigentlich hier machen wollte, nach einer tiefen Verbeugung vor der Darstellung von Professor Sestan irgendwie charakterisiert als der große Roosevelt, also der erste Roosevelt, seine Tätigkeit als Präsident der Vereinigten Staaten beendet hatte, hat er einen Besuch bei Kaiser Franz Josef in Wien gemacht. Und da ist ihm der Kaiser entgegengekommen mit den Worten, die eigentlich, glaube ich, sehr charakteristisch sind: Sie sehen in mir den letzten Vertreter der alten Monarchie. Nun glaube ich, wie immer, wenn etwas sehr charakteristisch ist, ist es nicht unbedingt richtig. Der alte Kaiser hat sich geirrt. Es hat noch eine andere Monarchie, also einen Monarchen gegeben, im äußersten Ende von Westende von Europa, die ebenso die letzte Vertreterin das war die Königin Victoria und vielleicht ein Historiker von der Kraft der Vision von Professor Sestan könnte seine Überschau über die Tätigkeit der österreichischen Monarchen damit schließen, mit einer Schilderung, wenn die zwei Monarchen zusammengekommen wären, als sie sich gegenseitig zusammen hätten. Aber vor allen Dingen liegt mir daran, die Verbeugung von der Kraft, von der visionären Kraft von Professor Sestan ausdrücken zu können. Janosch ha anzitutto espresso la sua ammirazione per la relazione del professor Sestan. Ha fatto due osservazioni, una direttamente dalla relazione, l'altra nata sentendo l'osservazione del professor Fella. Il giudizio sulle non grandi capacità della grande aristocrazia austriaca è un giudizio vecchio che risale addirittura a Schwarzenberg. Però va detto che uno dei piani di ristrutturazione della monarchia austriaca, secondo il modello degli Stati Uniti d'America, è dovuto ad un grande aristocratico, il conte Potocki. La seconda osservazione è una visita di Theodore Roosevelt a Francesco Giuseppe, quando ormai non era già più presidente degli Stati Uniti, e ha detto che il conte Francesco Giuseppe era l'ultimo monarca della vecchia scuola, E il professor Angeliano vi aggiunge che ce n'era anche un'altra, la regina Vittoria. Se vedete la Sicilia, esce dai caudi da Sicilia, di attorno e facciamo la nostra storia. Volevo ringraziare il professor Sestan per una relazione che non so se per la serenità per la quale è stata fatta o per la rievocazione di un passato che mi tocca profondamente, mi ha profondamente commosso. Forse come italiano, come cittadino italiano, dovrei dire che mi sento in questo senso anche profondamente austriaco, in questo senso. Però ho voluto dire anche distinguere tre livelli di federalismo, tre livelli di federalismo che non sono stati distinti e che purtroppo giocano un certo ruolo. C'è un federalismo etnico, un federalismo territoriale e un federalismo societario. Tutti i tre tipi tutti i tre tipi di federalismo non sono necessariamente identici, in quanto il federalismo etnico non necessariamente corrisponde al federalismo territoriale ed è molto difficile mettere insieme il federalismo sociale, che in sostanza vuol dire libero associazionismo, con il principio territoriale. Volevo ricordare che per molti federalisti il principio fondamentale è il principio di sussidiarietà. Ora, se ho fatto queste osservazioni, le faccio per una ragione contingente. Cioè, noi in Alto Adige ci troviamo in una situazione strana che ha dei risvolti etnici, dei risvolti territoriali e dei risvolti sociali ai quali, come viviamo nel XX secolo, non possiamo scappare. Il secolo scorso ha forse dimostrato che il nazionalismo etnico, il federalismo etnico da solo non è capace, e non è stato capace, come lo ha dimostrato il crollo della monarchia austriaca, di essere un principio ordinatore da solo. Nel Tirolo, e qui faccio anche, il Tirolo è un'entità storica. Voler fare del federalismo etnico in Tirolo vuol dire distruggere il Tirolo come entità storica. Voler fare un federalismo etnico spinto in Tirolo significa distruggere l'unità storica del Tirolo, lo ripeto, perché tutti sanno come complessi sono i rapporti etnici all'interno dello stesso Tirolo, almeno i tirolesi lo sanno, quelli di fuori non lo so. E noi dobbiamo... Uno dei principi che è stato caratteristico per il Tirolo è stato il federalismo territoriale, cioè l'amministrazione dal basso all'alto e non dall'alto al basso. Si è detto qui che l'amministrazione, si è sollevato un altro problema, che uno Stato moderno richiede una amministrazione centrale. Però è anche vero che lo Stato moderno non deve mai distruggere le comunità locali, le autonomie locali, le possibilità locali di fare quello che si può fare in casa, pena il crollo dello stesso Stato moderno o la sua deformazione in una dittatura inumana. Ecco, fatto queste premesse e collegate con la situazione locale, vorrei pregare chi avesse voglia di ascoltarmi di aiutarci forse a ricomporre un Tirolo antico e moderno in questa terra senza distinzione di lingua, conglobante anche e soprattutto gli italiani, in modo che questa missione tanto deplorata dell'Alto Adige possa essere anche una cosa positiva fosse un segno per un'Europa nuova in cui almeno queste bagaglie, bisogna fare parola francese, questi terribili conflitti fra stati sedicenti sovrani, bisogna pur dire, abbiano un termine. Alzecchi! Penso che avrà accetto un merito, quello di essere breve, è la unica qualità che mi riconosco come oratore. Dunque, io volevo prendere uno spunto della ricchissima relazione dell'amico Sestan, al quale tengo ancora una volta, tengo proprio a sottolineare la mia ammirazione. Cioè, questo spunto, lui ha accennato a dei corretti Grossdeutsch, ai rapporti, è vero, fra storia austriaca e germanica, nei loro i rapporti con la Germania, nei loro riflessi sui problemi di cui ci occupiamo e sulla storia interna austriaca. Io mi limito proprio a delle grandissime linee. In certo senso, questi rapporti si collegano con una linea di sviluppo che nei secoli va, cosa dici tu, dalla Ostmark alla Österreich, dalla Marca orientale, è vero, posto d'avanguardia del mondo germanico legato, è vero, all'espansione germanica dell'Europa orientale e anche alla missione cristiana, eccetera. Non dimentichiamo poi che gli Asburgo hanno tenuto la corona del Sacro Romano Impero della nazione germanica, quindi capi morali anche del mondo germanico. Questa Ostmark, da questa posizione di avanguardia legata strettamente col mondo germanico, la Österreich, cioè al Reich dell'Oriente, qualcosa di autonomo e indipendente. In certo senso, è vero, le tappe di queste finali di questa evoluzione, appunto, la rinuncia al titolo del Sacro Romano Impero, è vero, e l'assunzione del titolo di imperatore d'Austria, e poi l'urto, è vero, del 66, col nazionalismo germanico. Questo divorzio con la Germania, dalla Germania, è vero, ha portato ad una diversa fase della storia austriaca. Prima, è vero, tutto il Reich austriaco, l'impero austriaco, si basava su questo retroterra germanico, era l'avanguardia del mondo germanico. Adesso, col nazionalismo germanico, si ha una separazione e quindi il principio unitario non ha più il punto d'appoggio così solido e forte che ha avuto nella storia, è vero, cioè appunto questo punto d'appoggio tedesco. Abbandonato a se stesso il Reich dell'Oriente, il gruppo etnico austriaco a cui si appoggia la monarchia non ha sufficiente possibilità di affermarsi. È vero. E questo appunto rimangono, in certo senso, la corrente Grossdeutsch rievoca le nostalgie del fare, è vero, dell'Austria, la punta d'avanguardia del corpus germanico nel suo insieme. Io ancora il ricordo, del resto la concezione unitaria della storia austriaca del nostro maestro von Sussex, è vero, che vede una unità storica del corpus germanico nella sua evoluzione. Io ricordo appunto certi colloqui come Sussex, anche le ultime illusioni di poter ritrovare un agganciamento tra storia austriaca e storia germanica, ma mi sono promesso di essere breve perché qui ci sarebbero molte cose interessanti da dire. Il professor Sestan risponderà. Io sarò breve per ragioni logistiche. Sì. Ringrazio tutti, sono loro che hanno interloquito nella mia relazione, innanzitutto per il riconoscimento generale che benevolmente gli hanno voluto accordare. Vero? Quanto cito professor Fellner, dirò che secondo me giustamente egli ha accentuato i motivi economico-sociali, vero, che sono dietro a molte difficoltà politiche della vita ordinaria dei vari ministeri austriaci, nonché l'azione, qualche volta direi opposizione, che queste nuove concezioni insomma, potevano incontrare in un uomo quale Francesco Giuseppe, insomma, che abbia fatto insomma, la sua prima esperienza politica in un'età precedente. In certo senso è meraviglioso quest'uomo, insomma, vero, che parte da un 48, vero, in mezzo a Subbuglio, vero, poi passa attraverso una fase assolutistica e tuttavia insomma, poi insomma, adottata la linea costituzionale ne tiene fede insomma, con una coerenza di cui dobbiamo tener conto, insomma, perché nel suo entourage vero, pressioni perché vero, abbandonasse la linea costituzionale non mancavano, insomma, vero, sia negli elementi feudali insomma, sia anche insomma, negli elementi militari. Quindi questo punto mi pare che sia veramente insomma, da prendere in considerazione, soprattutto poi nel lungo periodo, i 14 anni insomma, del governo di Tafe, dove sì, quella sua grande abilità di destreggiarsi, tuttavia insomma, riesce insomma, ad attuare insomma, delle riforme, soprattutto insomma, nel campo sociale, che hanno portato l'Austria a un livello notevole, anche confrontata con la situazione generale d'Europa del tempo. Del resto anche la malfamata era Bach, se dal punto di vista politico è stata insomma, era, insomma di assolutismo pieno, tuttavia insomma, in altri campi insomma, ha lasciato delle orme notevoli e positive nella storia dell'Austria. Insomma, quindi ringrazio il professor Fellner per queste sue precisazioni. Circa l'intervento del professor Leoncini, dirò però, che effettivamente c'è una profonda distinzione insomma, fra l'estremo socialismo che qualcuno insomma, non ti voglia sottolineare ed approvare questa definizione che qualcuno ha voluto chiamare in anticipo quasi una specie di social nazionalismo cieco, c'è una profonda differenza tra il Kroffac e il gruppo anche riconosce non molto numeroso che lo seguiva in confronto al Kramers che poi era un socialista insomma, fino a un certo punto in realtà insomma, era un nazionalista di cui poi dopo la guerra si sono conosciuti anche certi suoi rapporti insomma, con la Russia vero, che avrebbero meritato forse insomma, un intervento della polizia più rigoroso di quello che gli fu applicato durante la guerra e che poi si concluse sì, con una condanna e con una successiva grazia. Insomma, al professor Engel Janosch, al quale sono molto grato per le parole gentili che ha voluto rivolgermi e che vengono da un cultore così profondo della storia austriaca e non di quella soltanto, grato insomma, per aver messo in rilievo vero che non tutto insomma, era poi efficiente nella classe politica austriaca anche quando era impersonata come spesso in elementi della vecchia aristocrazia insomma, un polacco come Potocki insomma, certamente insomma, era notevole molta considerazione e ringrazio anche per quella citazione insomma, del in riferimento al viaggio di Roosevelt in Europa, vero è che da parte insomma, di un americano a capo di uno Stato che veramente è autentico federalismo, tuttavia insomma, era un'osservazione positiva insomma, sulla esistenza, probabilmente per l'Austria l'unica possibile, di mantenerla insieme, insomma, come la mantenne insieme il vecchio imperatore, insomma, l'ultimo monarca sì, di un'epoca che stava tramontando, ma che ancora insomma, si batteva bene in quel trico inestricabile qual era la politica interna austriaca. Al professor Stocker sono molto grato insomma, per la precisazione circa questo termine di federalismo. Veramente, insomma, non è un termine felice, insomma, vero? Come molti altri termini che corrono, insomma, nella storiografia, tipo, non so, feudalesimo, vero? Sono dei termini che hanno ormai cittadinanza e corrono a briglia sciolta, ma quando poi si va a analizzarli un po' da vicino si vede che sono dei termini molto equivoci. La descrizione da lui proposta di tre tipi, insomma, di federalismo, mi pare si possa accogliere senz'altro quello etnico e quello territoriale, che sono in contrasto, data la situazione austriaca, insomma, in contrasto insolubile, e l'altro, insomma, è proposto, insomma, dal socialismo, che su questa base di interessi generali, sì, al di là di ogni differenza etnica della classe proletaria, avrebbe potuto, insomma, proporre una soluzione. La storia è andata per altre vie, questa soluzione non c'è stata. E infine, insomma, l'amico e collega Valsecchi, insomma, certamente le sue osservazioni riguardo, insomma, alla politica austriaca, cioè dei tedeschi dell'Austria, dapprima, insomma, sostenuti molto forti fino alla crisi di Königgrätz, di Sadovia del 66, dal fatto, insomma, di essere, insomma, seppure, insomma, in concorrenza con la Prussia, insomma, la potenza, insomma, che fino a quel momento dettava un po' legge, piuttosto che legge, insomma, era lo Stato preeminente nella Confederazione Germanica, come del resto poi si era visto, insomma, particolarmente al tempo della Costituzione dello studente di Francoforte, vero? E la crisi successiva, fino di Olmütz, eccetera. Insomma, certo, il divorzio avvenuto fra i tedeschi dell'Austria e i tedeschi della Germania, rappresentanti, vorrei quasi dire, più autentici della vera e propria nazione tedesca, creava dei grossi problemi, e per cui i tedeschi dell'Austria, insomma, si trovarono in difficoltà progredienti. D'altra parte, sì, effettivamente, insomma, ci fu un divorzio, anche se poi, insomma, ero così piuttosto episodicamente, perché non si può poi troppo sopravvalutare il significato del pangermanesimo di un von Schönere o d'altri, insomma, ebbe in un certo momento anche fortune elettorali, mi pare che riuscì ad avere 24 deputati circa. Ma poi tre soltanto, al momento del suffragio universale? Tre soltanto. E neanche lui. Quindi fu sopraffatto, insomma, dalle tendenze invece soprattutto della piccola borghesia viennese che seguiva il Weger e via. Quindi sì, effettivamente è vero, le difficoltà rimanevano, insomma, però, insomma, non è, insomma, che nei tedeschi dell'Austria, neppure in disperazione di causa, insomma, prevalesse come soluzione la possibilità, insomma, di una specie di irredentismo austriaco rispetto alla Germania. Insomma, questo non toglie però che il problema c'era, soprattutto poi di fronte ai pericoli progredienti, insomma, che si scaricavano sopra i tedeschi, che preparavano probabilmente un avvenire molto difficile per loro. Poi, va bene, le armi risolsero ogni cosa, insomma, nel modo che tutti sappiamo, e quella fu la soluzione, insomma. Ringrazio tutti, insomma, di coloro che sono intervenuti, vero, con le loro giustissime e apprezzabili osservazioni. Di dare l'ultima parola all'amico Ara, vorrei soltanto, a nome dei partecipanti austriaci, ringraziare di nuovo il professor Prodi e tutti i suoi collaboratori che, quasi invisibili dietro al sipario, hanno diretto così magnificamente questo convegno. E fra gli organizzatori, primo veramente è stato il professor Ara, che soltanto un anno fa, qui a Trento, in occasione del seminario sul socialismo e poi a Mantova in occasione del congresso della storia del risorgimento col professor Valsecchi, col professor Corsini e con me ha messo insieme i relatori e poi ha continuato in un veramente brevissimo spazio di tempo e bisogna sempre tener conto che quanto è difficile trovare oratori al giorno d'oggi che c'è una tale folla di convegni e di congressi e mettere insieme questo terzo convegno che mi sembra veramente moltissimo riuscito molto bene e di nuovo ringraziamenti a Prodi e collaboratori, anzitutto la gentile signora Federico che ha diretto da dietro come madre, no, credo che non sia qua, o è qua, ah sì, come madre invisibile le sorti della nostra piccola famiglia che si è costituita qua. E adesso prego il professor Ara. Grazie, io ringrazio anzitutto il professor Vandrush, la mia non sarà certo una conclusione, perché le conclusioni sono già state tratte in maniera così mirabile dalla relazione del professor Sestan, e quindi il mio sarà solo un saluto e un ringraziamento, anche perché sia pure come espressione di voce altrui in questi giorni ho parlato fin troppo. Vorrei anzitutto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, che con le loro relazioni, con i loro interventi, con la loro attenzione hanno contribuito a quella che credo possiamo dire sia stata veramente la buona riuscita, anche il professor Sestan ce l'ha detto, del nostro congresso, e voglio unirmi al ringraziamento che già il professor Vandrush ha fatto per tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione del congresso. Anzitutto, e mi permetto di dirlo di nuovo, chi più di tutti ha lavorato nella preparazione del congresso e in questi giorni del congresso, la signora Carmen Federico, l'Istituto Storico Italo-Germanico di Trento, l'Istituto Trentino di Cultura, il professor Prodi a cui tutto dobbiamo, per il convegno, l'Associazione Italia-Austria, e voglio anche ricordare che alcuni colleghi ci hanno inviato il loro saluto e la loro adesione, pur non potendo intervenire, e l'Istituto per la Storia del Risorgimento, attraverso il professor Corsini, porta l'adesione del professor Ghisalberti. E i temi sono stati tanti, contributi così importanti, che credo non sia certo possibile ricordarli. Ci sono tanti problemi aperti, che forse sarebbe proprio quelli che meriterebbero di più di essere ripresi. Ne cito uno solo, perché è stato ricordato ieri in un intervento di Barengo, e in fondo è un tema che ha costituito uno dei momenti chiave della relazione del professor Sestan, il problema delle autonomie storiche, delle autonomie nazionali, e se è possibile effettivamente diversificare in che limiti questi due concetti. E questo potrebbe anche essere il tema di un prossimo incontro, che non dovrebbe però a questo punto forse essere più solo italo-austriaco, ma riunire proprio studiosi che abbiano studiato, che siano in grado di portarci dei contributi nuovi su questa questione all'interno della monarchia asburgica e probabilmente anche al di fuori di essa. Ci sono poi anche altri problemi, come quello collegato al ruolo sociale, finanziario, degli appaltatori delle imposte, di cui ci ha parlato in maniera così pertinente, veramente così mirabile, la dottoressa Taurer ieri, e ci sono tantissimi temi che non si possono ricordare. Un ultimo saluto e ringraziamento particolare ai nostri colleghi austriaci, che non vogliamo naturalmente invitare alla organizzazione immediata di un quarto congresso, ma però penso che possiamo esprimere la speranza di poterci rivedere presto, questa volta da voi, su un tema a vostra scelta, in modo da continuare questi incontri che credo contribuiscono effettivamente alla migliore conoscenza dei temi che ci hanno diviso e che oggi ci legano, contribuiscono alla migliore conoscenza delle rispettive storiografie e, cosa ultima, ma anche, ma direi non meno importante, contribuiscono, oltre alla conoscenza migliore delle rispettive storiografie, cioè della conoscenza di libri, anche alla conoscenza di persone